9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Qua siete tutti contenti, io lo so, ho ricevuto 4.000 mail da stanotte di gente che dice dimettiti, cacciati, buffone, vai a casa, viva l'Italia, i tedeschi crucchi li abbiamo piegati sul campo, li piegherà Monti, devi sparire, non puoi altro che fare, viva l'Italia, iniziamo con viva l'Italia, mi arrendo. Capite bene che con un inno che dice la vittoria, le porga la chioma, schiava di Roma, e voi che mi avete mandato circa 12.000 mail dicendo che l'inno tedesco, la terza strofa parla di pace e unità, che è un inno nazista, o non sentite bene il vostro inno, oppure... Ma non voglio fare l'antitaliano, la verità vera è... Non parliamo di calcio, ovviamente, so che su questo non sono abbastanza competente, ci sarà la finale, viva viva l'Italia, la Spagna, quello che volete. La cosa fondamentale è quella di cui dobbiamo parlare per capirla meglio, è quella avvenuta al Consiglio Europeo. Potrebbe essere, ma a quest'ora di questa mattina bisogna dire, è una novità molto rilevante... Può essere l'inizio di una svolta vera, come sempre bisognerà vedere dai particolari se questo nuovo strumento, fortemente voluto dal Presidente del Consiglio Mario Monti e a cui è stato ottenuto l'assenso stamattina alle 5, ma solo dopo che l'Italia ha dovuto passare per un veto esercitato a un Consiglio europeo sul pacchetto dell'Unione economica, invece a cui la Germania teneva molto e che considerava essere l'unico vero argomento nell'agenda del Consiglio europeo. Bisognerà vedere, ripeto, se questa vittoria italiana politica al tavolo del Consiglio europeo e la vittoria della Spagna, per un altro capitolo che riguardava la Spagna, esercitata attraverso il veto, sarà scritta nei termini necessari perché questi strumenti ottenuti diventino operativi ed efficaci, ma a oggi, a quest'ora, ha tutto l'aspetto di una svolta molto significativa, molto rilevante, che potrebbe introdurre per la prima volta dopo 2 anni e mezzo un meccanismo cooperativo per evitare, con risorse adeguate e tendenzialmente devono essere limitate, di allargare la forbice sui mercati degli spread, dei rendimenti sui titoli pubblici decennali. Allora, qual è stata la richiesta italiana su cui è stato posto il veto se non fosse passata? È stata quella di prevedere di attribuire all'ESM, l'ESM dal 1° di luglio subentra al fondo salva stati precedente, l'EFSF, di attribuire all'ESM una licenza bancaria, perché attribuendo all'ESM una licenza bancaria esso possa abbeverarsi di liquidità alla BCE senza che sia la BCE direttamente a comprare i titoli di debito pubblico dei paesi di cui si infiammi lo spread, così non si viola sostanzialmente l'ortodossia che vieta la monetarizzazione dei debiti. ma l'ASM con la licenza bancaria può intervenire sui mercati secondari, vediamo anche se sui primari, tanto quello che conta è soprattutto sui mercati secondari, con adeguate munizioni, parentesi, se serve illimitate, parentesi, e deve farlo per quei paesi che abbiano delle caratteristiche di essere allineati con il rigore richiesto, poiché l'Italia, sia pure sotto i colpi di un PIL che ieri Confindustria ha corretto, come vi dicevo, siamo a meno 2,4% come PIL atteso nel 2012, e quindi con un gettito interno fiscale che, malgrado tutte le tasse nuove, proprio per quello anzi diminuisce, noi andiamo in avanzo primario nel bilancio dalla fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo, quindi siamo, da un punto di vista di equilibrio del bilancio, sia pure a costo di tasse altissime e di spesa corrente che resta altissima, ma siamo in un percorso molto avanzato, il paese più avanzato dopo la Germania come rigore contabile, anche se il nostro mix naturalmente ci rende incapaci di crescere per questo, in ragione della nostra virtù sul conto economico, a quel punto l'ASM avrebbe la facoltà e gli strumenti per placare gli spread italiani. È stato necessario un veto, l'Italia sapete che non pone il veto, e come è stato necessario il veto per la Spagna, che voleva fosse chiaro che gli aiuti alle sue banche non configurano aiuti diretti allo Stato, cioè non configurano un aumento del debito pubblico, sarebbe stato il cane che si morde la coda. Alla fine, stamattina alle 5, Mario Monti ha ottenuto quello che voleva. Dal punto di vista di ciò di cui sappiamo a quest'ora, se non dovessero avvenire novità o sul testo come ci è stato presentato, o sulle sue modalità temporali, o se i tedeschi non dovessero aver congegnato qualche bomba a tempo, per così dire, si tratta per l'Italia della possibilità di passare una estate al riparo di ciò che altrimenti sarebbe avvenuto. Noi saremmo finiti sotto schiaffo dopo Spagna, Portogallo, Grecia e Irlanda, si sarebbe concentrato sul nostro spread e come avevamo detto nei giorni precedenti, ci era riservata la proposta del fondo di redenzione del debito pubblico che i tedeschi avevano proposto per tutti, concordata tra Berlino, l'Unione Europea, la BCE e il fondo monetario, e saremmo stati salvati così, ma rimanendo impiccati per molti anni a tassi di pressione fiscale così elevata. Questa è la mia prima impressione e bisogna renderne merito allo stato attuale, ripeto, al premier italiano, e direi che per questo ci siamo permessi di fare questa commedia iniziale in questo San Pietro e Paolo, con tutti San Pietro e Paolo, in cui abbiamo iniziato con i Doors, poi con il tedesco, poi con la bomba, la sirena e l'inno italiano che unisce tutti. Speriamo che sia davvero così. Parentesi, a oggi non voglio soffermarmi sul fatto che questo nulla leva al fatto che poi occorre abbattere il debito con dismissione di patrimonio e abbattere la spesa pubblica e le tasse per crescere. Di questo ne parliamo un altro giorno, ma quello che vorrei semplicemente che fosse chiaro è se i nostri ospiti sono d'accordo con questa idea oppure no. Allora, cominciamo con Richard Lusé, che è corrispondente in Italia di Figaro, e a lui chiedo che impressione ha avuto sul ruolo svolto dalla Francia, perché il presidente Hollande era sembrato nel bilaterale con la Merkel un giorno prima dell'inizio del Consiglio Europeo avere mollato l'Italia e la Spagna e concordare con la Germania. Si è scoperto poi al tavolo europeo che si è trattato di una mossa diplomatica, perché al tavolo con gli Sherpa, dopo che gli italiani hanno posto il veto, invece i colleghi da Bruxelles ci dicono che la Francia si è poi attenuto molto, molto energicamente la linea italo-spagnola nei confronti della Germania. La Germania quindi poi è stata costretta ad accettare stamattina. Però voglio chiedere a Richard Lusé se lui l'ha vista così e che cosa si pensano oggi, che cosa scrivono oggi i giornali e i telegiornali stamattina francesi, cosa dicono ai francesi. Buongiorno innanzitutto e grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno. Sì, infatti è più o meno così, la fermezza di Mario Monti ha pagato alla fine e François Hollande, che sembrava al vertice di Villa Madama, abbastanza lontana dalle idee francesi, ieri ha sottolineato che l'Italia non aveva ottenuto quello che cercava e che si doveva trovare un modo di rompere l'ultimatum del posto di Mario Monti. Stamattina, ovviamente molto presto, ma stamattina i siti online riprendono questo accordo, la zona euro ha trovato un accordo, dice quello del Figaro, sottolineando che un accordo sulla crescita non basta, che si deve trovare modi di accontentare, ma non soltanto accontentare, di regolare i punti sollevati da Mario Monti. La Francia interpreta la François Hollande ieri, che ha avuto un colloquio con Mario Monti, mi sembra, interpreta la posizione italiana come un altro tassello alla sua opposizione alla cancelliera Di Feo, e prova che François Hollande ha detto che non si dovevano, si doveva veramente dare credito all'Italia e alla Spagna di aver messo un problema cruciale sulla tavola. Sicuramente durante la negoziazione Cazeneuve, che è il Sherpa di François Hollande per l'Europa, ha insistito molto sulle richieste italiane, e così questa mattina alle 5.30 si è potuto trovare l'accordo annunciato da Van Rompuy. Per François Hollande era importante di non staccarsi, il rischio per lui era di ritrovarsi isolato di fronte alla fermezza tedesca, e lui voleva rompere questo accerchiamento dei tedeschi e dei paesi dell'Europa del Nord, in particolare la Finlandia, per esempio, anche l'Olanda. Dunque ha cercato nei paesi del sud, delle alleati, questo non da ieri ma da parecchio tempo, è venuto in anteprima a Roma, in anteprima al vertice di Villa Madama, ma non aveva mai tanto esplicitamente dato il suo appoggio a Mario Monti. Dunque non si può parlare di un direttorio franco-italiano che farebbe contrasto alla durezza tedesca, ma sicuramente questo atteggiamento avrà delle conseguenze nel futuro del dialogo all'interno dell'Europa. Allora, io sono d'accordo assolutamente con te che non è opportuno, ma non è opportuno neanche né politicamente né diplomaticamente. L'idea, insomma, l'Europa nasce su questo, sull'asse franco-tedesco, perché franco-tedesco era stato il contrasto plurisecolare a cui occorreva porre rimedio, con l'idea stessa di Europa, e qualunque asse, per così dire, parallelo o anzi contrapposto, indebolisce poi il cuore dell'intesa europea. Ma la domanda che ti faccio è se in sintesi puoi dirci, si consolida in questi mesi uno degli aspetti che è comunque stato presente anche nella vittoria di Hollande all'Eliseo e poi nella vittoria dei socialisti alle elezioni legislative, cioè da parte della maggioranza dell'opinione pubblica francese, la necessità di una correzione rispetto a un rapporto che M. Sarkozy aveva tenuto troppo adesivo, troppo vicino, troppo di consenso con le posizioni tedesche. C'è questo aspetto nei sondaggi, nella sensibilità dell'opinione pubblica francese, e ti chiedo di fare un paragone, perché oramai in quella italiana è diventata a mio giudizio assolutamente eccessivo e improprio, cioè quando si vedono titoli come quelli di alcuni giornali di oggi, Vaffan Merkel, cose di questo tipo qua, io credo che la stampa travalichi e non faccia altro che soffiare sugli aspetti più demagogici di incultura popolare e di fanatismo popolare, alimentando nazionalismo, incomprensione, l'incomprensione verso i tedeschi, che si sono fatti un mazzo tanto e noi lì per rimettere le cose a casa loro, e poi noi invece li dipingiamo come se degli aggressori imperialisti. Ma nel sentimento dei due popoli, la Francia di questi ultimi mesi e l'Italia, tu vedi tratti analoghi nei confronti dei tedeschi oppure no, Richard? Ha una differenza, però sa che il punto difficile per François Hollande sarà di ratificare il fiscal compact e di integrare nella Costituzione francese la cosiddetta regola d'oro, che impone dei equilibri di bilanci o che impedisce di fare nuovi squilibri di bilanci. Hollande finora e la sua maggioranza sono fermamente opposto a adottare questa regola d'oro, mentre in Italia è già stato fatto a febbraio, l'Italia è stata una dei primi in Europa a farlo, neanche la Germania l'ha ancora fatto, mi sembra. E la cosa sorprendente è che un sondaggio fatto dal Figaro fa valere che l'85% dei francesi sono a favore dell'approvazione di questa regola d'oro nella Costituzione, dunque sono in disaccordo con François Hollande. Cioè i francesi vogliono il pareggio di bilancio e non si fidano dei politici più di quanto la politica stessa non dica, ecco. Appunto. Voglio dire, questo mi sembra un sentimento sano, cioè, che io spero si alimenti anche in Italia, anche perché presto, una volta che si rasserena, vedremo come reagiscono i mercati. Oggi reagiscono bene di sicuro, ma vedremo soprattutto se poi questa diga a favore soprattutto dell'Italia, perché l'Italia è più virtuosa. La proposta di Monti aveva una debolezza, che era chiesta per noi, dopo che abbiamo detto e continuiamo a dire di non averne bisogno, quando tutti gli altri paesi eurodeboli erano caduti ed erano intervenuti gli aiuti in loro vantaggio. Onore alla freddezza e alla determinazione e evidentemente anche alla convinzione con cui Mario Monti, ponendo il veto, ha impedito fino alle 5 stamattina ai tedeschi di andare a casa dicendo il è passato solo il pacchetto di unione economica, e ha portato a casa questo strumento di cui adesso bisogna, il mercato testerà di sicuro la forza di questa, del cemento di questa diga, perché sicuramente verranno all'attacco sui rendimenti italiani, e bisognerà vedere se l'SM davvero sarà posto in condizioni tecniche di potersi abbeverare con la licenza bancaria nuova alla BCE e a quel punto iniziare a comprare i titoli necessari per fare sfiammare l'attacco, perché l'attacco proverà su soglie progressive proprio per vedere l'estensione, l'ampiezza delle dotazioni finanziarie con cui l'SM risponderà. Questo è quello che bisogna sapere che avverrà. Però Monti ha ottenuto il sì a questa cosa, e questa cosa consente, per così dire, secondo me, di raffreddare la voglia di andare a votare a ottobre, consente di mettere mano a ciò che poi manca, a un piano serio tutto italiano, del guaio tutto italiano che precede all'euro. Ma adesso abbiamo Carlo Gentili di Nest & Partners, con cui spesso analizziamo appunto le cose che il punto di vista dei mercati, cosa i mercati si attendono sugli sviluppi dell'euroagenda, e chiedo a Carlo Gentili dal suo punto di vista questo accordo notturno dopo il veto italiano sulla licenza bancaria all'ASM e alla sua possibilità di intervento a sostegno antispread per i paesi più virtuosi come appunto è l'Italia. Che cosa pensa che il mercato valuterà e come lo testerà? Cosa bisogna attendersi? Non solo oggi è evidente, ma nelle prossime settimane. Buongiorno e grazie per essere con noi, Carlo Gentili. No, buongiorno, grazie a voi. Ma oggi sì, è evidente, mi sembra un accordo che i mercati recepiscono in maniera positiva, per cui diciamo, godiamoci questo elemento finalmente, che insomma è un piccolo passo avanti nella lunga cavalcata per ottenere, come dire, l'Europa unita, più Europa, più coesione tra i paesi, eccetera. Mi sembra che sia un accordo, anche se minimale, ma che va nella giusta direzione, e i mercati lo stanno già registrando. Però lei mi sembra prudente. Ma per forza bisogna essere prudenti, perché la politica di questi anni, cioè la lentezza della politica in negli ultimi due anni è imbarazzante, quindi non si può che essere prudenti, bisogna essere prudenti. Cioè abbiamo visto reazioni che nessuno di noi si sarebbe mai immaginato, almeno non il mercato in senso generale, ecco, magari qualche visionario forse l'aveva anche azzeccata, ma si contano veramente sulle dita di una mano. Ha colto tutti di sorpresa una crisi sul debito così, ma insomma era inaspettata, ecco. Comunque sì, la si paventava, se vogliamo, anche da 20 anni, però insomma di fatto e forse era poi anche nei libri di scuola si scriveva che i t- titoli governativi erano risk free, ecco, ecco. Invece non è più vero. La grande illusione che il debito pubblico sia appunto un pasto gratis, e invece la mia opinione è che è molto positivo scoprire che, come ci sono gli eccessi di consumo finanziato a debito che poi portano a grandi crisi, i primi lunghi anni della crisi venuta dal mondo anglosassone, dal sistema di intermediazione finanziaria ad alta leva e bassa congruità patrimoniale, ma la stessa cosa è per gli eccessi di consumi pubblici finanziati a debito. Adesso il problema è inventarsi delle dighe abbastanza elevate e dall'altra parte però poi mettere mano al risanamento. Bisogna aspettarsi, Carlo Gentili, nelle prossime settimane, mesi o giorni, al di là della soddisfazione di oggi, l'attacco, cioè la maniera in cui il mercato andrà a testare se l'SM poi funziona davvero come diga antispread italiano? Ah no, no, non ci vuole molto, penso che nei prossimi giorni o settimane, insomma, ecco una cosa, i mercati queste cose, se hanno intenzione di andarle a testare, e penso che lo fanno rapidamente, non aspettano, magari aspettano il primo piccolo incidente politico, il primo momento in cui un governo va sotto in Parlamento o non so, ecco, un caso così per provare a vedere quanto funziona questo accordo. Nel frattempo, mi corregga se sbaglio, ma chi è corto, e tanti sono corti di fondi internazionali, chi è corto nel frattempo ha tutto l'interesse, prima che diventi operativo l'accordo politico di stanotte, perché ovviamente per renderlo operativo bisogna dare la licenza bancaria, bisogna disciplinare poi in maniera nuova l'SM, cioè passeranno un po' di giorni e settimane, chi è corto secondo me in questo lasso ha tutto l'interesse a realizzare, cioè, e chi è corto realizza scendendo, quindi significa che secondo me si balla, però io magari sbaglio, lei che dice? No, sì, cioè è giusto, ma chi è corto in questo momento ha una paura bestiale di rimanere scoperto, quindi deve correggere. Sta perdendo una valanga di denaro, non c'è dubbio. Qui il mercato oggi sale perché chi è corto si sta coprendo. Deve correggere. O comunque sta chiudendo posizioni su cui probabilmente è in larghissimo profitto. Esatto. E allora, su questo, diciamo così, mismatch tra chi inizia a ricoprirsi e dice non posso essere più corto, e un'operazione test poi della validità, della tenuta, della diga, dell'SM che ha ottenuto stanotte Mario Monte dopo aver posto il veto ai tedeschi, e su questa specie di falsa riga che andranno avanti le prossime settimane sui mercati finanziari, con ogni probabilità. Intanto non è merito al Monti, e però non dimenticatevi, oggi non ne parliamo ma torneremo a parlarne. Questo ci consente finalmente di concentrarci su un piano serio per risolvere il problema del debito pubblico italiano, della crescita italiana, che al di là delle dighe deve avvenire con gli italiani che si guardano in faccia e fanno delle scelte che per troppi anni non hanno fatto. Io faccio le seguenti scommesse. Attenzione, come quella di Fukushima che ho vinto, perché siamo ancora a morti zero, anche se molti adesso hanno tirato fuori addirittura quello che avevo detto giorni Fukushima. Anche lì però pare che abbia vinto io. Poi avete vinto voi, non ci si fa più l'energia nucleare, non si fa più energia elettrica in Giappone, i paesi fanno marcia indietro. Però siamo ancora a morti zero, accettati. Formatevi, pare che sia così. Per quello, per le radiazioni, lo tsunami, migliaia e migliaia. Detto questo, allora, se i tedeschi, secondo voi, coloro che mi chiedono cosa hanno avuto in cambio, possibile hanno avuto in cambio niente, no, il problema è che non credo affatto che nella stendere le norme tecniche dell'accordo politico di questa notte assisterete al fatto che davvero all'SM poi sì, ESM si consentiranno risorse illimitate per tenere bassi gli spread, questo non credo, anche perché non è giusto. Vedremo poi come funziona l'accordo tecnico. Intanto rendiamo onore a Mario Monti, speriamo che questo consenta poi di concentrarci sui problemi veri di questa guerra che è la crisi economica italiana, dovuta al debito pubblico del ladro, dello Stato tassicodipendente ladro, che a questo punto inizierà a volervi illudere che, risolto il problema della diga sul nostro spread, non bisogna più diminuire la spesa corrente, non bisogna più diminuire le tasse, non è vero che abbiamo un debito pubblico insostenibile. Allora, proprio per ricordarvelo, oggi parliamo intanto di pezzi di perimetro pubblico che vanno in default mentre aleggia sull'Italia l'ombra del default, ed è puntualmente avvenuto a un comune capoluogo di provincia, è la prima volta anzi che viene un comune capoluogo di provincia ad essere andato in bancarotta e ad averlo ieri deciso riconosciuto il governo secondo le norme dell'ordinamento vigente, è Alessandria. E allora, per farci spiegare come, perché, con quali conseguenze avviene la bancarotta di Alessandria, ha accettato di essere con noi Piero Bottino, che è il capo della redazione della Stampa ad Alessandria. E ho pensato che la cosa migliore fosse non chiedere ai politici, da poco era amministrato dalla sinistra il comune di Alessandria, e la responsabilità di quello che è avvenuto si deve alla giunta PD Lega, che poi ha perso le elezioni. L'ex sindaco si chiamava Piercarlo Fabio, il nuovo sindaco del PD si chiama Rita Rossa, ma noi abbiamo chiesto a Piero Bottino, che con noi ringrazio, di raccontarci questa cosa. Agli alessandrini era nota che sarebbe avvenuta, oppure tutti si illudevano un po', come poi avverrà per l'Italia, che tanto la bancarotta pubblica non può avvenire? Come la vivono gli alessandrini questa vicenda, e soprattutto che conseguenze davvero concrete e reali avrà? Grazie di essere con noi, Piero. Sì, grazie a voi e ai vostri ascoltatori. Dunque, intanto devo fare una premessa. Io sono considerato, io e il mio giornale siamo considerati antagonisti dall'ex sindaco, e quindi dal suo punto di vista avversari politici, perché forse anche perché io adesso poi non posso entrare nella sua testa, ma noi abbiamo sempre tenuto da un anno e mezzo a questa parte una linea che cercava di spiegare agli alessandrini che cosa stava succedendo, a che cosa si stava andando incontro. E secondo me bene avete fatto bene il vostro mestiere. Poi la politica di solito giudica i giornalisti a seconda se danno una mano alle difficoltà invece che se fanno bene il loro mestiere. Il discorso è appunto che l'ex sindaco ancora adesso ha delle difficoltà ad ammettere certe cose. Comunque la situazione è questa, che una giunta che tutto sommato non aveva fatto male nei primi anni del suo governo, a un certo punto si è incartata perché non ha capito che erano cambiati i tempi, probabilmente, nel senso che verso il 2009-2010 si sono trovati con avere più o meno gli stessi problemi che avevano in precedenti giunte precedenti, cioè una spesa maggiore a quella delle entrate, però invece di tagliare le spese hanno deciso di affidarsi alla finanza creativa, diciamo così, cioè cercando di cominciare a vendere, e quindi hanno cercato di vendere tutto quello che era possibile, ma soprattutto di valorizzare, quindi con questo termine significa prendere un bene del comune e metterlo, che magari è registrato a registro per poche migliaia di euro, metterlo sul mercato e ottenerne molti di più. Questo è successo un paio di volte, ha imbaldanzito evidentemente la giunta, che ha pensato appunto di passare direttamente le cartolarizzazioni, cioè creando due società che poi prendevano questi beni, facevano un mutuo su questi beni e davano subito i soldi al comune. Col tempo poi avrebbero dovuto venderli e quindi anche guadagnarci. In effetti poi col tempo hanno dovuto venderli, ma ci hanno perso. Questa è una delle tante cose. Quindi poi la giunta si è data una strategia, diciamo così, di incremento di risorse di finanza straordinaria invece che concentrarsi sui fondamentali del bilancio, la spesa e l'equilibrio rispetto alle entrate ordinarie, non quelle della finanza. Questo è quello che la Corte dei Conti ha rimproverato fin dal primo momento alla giunta, e c'è anche, diciamo, un aspetto molto peggiore, nel senso che poi in vista del patto di stabilità 2010 la giunta ha deciso appunto a quel punto lì col bianchetto di cancellare una serie di impegni di spesa in bilancio che invece erano spese fatte o comunque incomprimibili, e quindi ha fatto una specie di maquillage di questo bilancio, e infatti per questo l'ex sindaco, l'ex assessore alle finanze e il ragioniere capo, che è finito anche in prigione, sono indagati dalla procura per falso in bilancio, truffa allo Stato e abuso. Quindi qui andiamo sul penale, se vogliamo. Allora, voi adesso documentate una situazione dopo questa certificazione che è avvenuta. Adesso partono le procedure di commissariamento che ci spiegherai. Per cui il comune di Alessandria, che ha 1607 dipendenti, come somma tra dipendenti diretti del comune 700 e quelli delle partecipate, ha in cassa 0,95 centesimi. Al 21 giugno, adesso sono passati 8 giorni, quindi c'è sempre speranza. Però ecco, una dei provvedimenti della nuova giunta è stato quello, non so se sarà un boomerang o meno, di mettere sull'albo pretorio e aggiornare periodicamente lo stato delle casse del comune, e quindi si può vedere facilmente andando sul sito del comune di Alessandria quanti soldi ci sono in cassa. Al 21 giugno, cioè l'ultimo dato disponibile, erano 0,95 centesimi, cioè 95 centesimi di euro. Allora, lì adesso il Consiglio Comunale deve deliberare il dissesto, poi ci vuole una nomina di una troica di commissari con un decreto del Presidente della Repubblica. Ma cosa succede però ai cittadini di una città che va ufficialmente in bancarotta? Cioè, gli alessandrini, che cosa avverrà? Gli alessandrini dovranno intanto pagare molte più tasse di imposte di quante che di quello che pagano adesso, e soprattutto dovranno pagare di più quelli che si chiamano servizi a domanda individuale. Si calcola per esempio che per quanto riguarda l'acqua, che è una cosa che tutti usano, le tariffe sono molto basse e andranno probabilmente raddoppiate. Per quanto riguarda l'allacciamento delle fognature, della depurazione, anche lì ci saranno dei forti aumenti, ma questi riguardano una piccola parte di famiglie. La mensa scolastica riguarda già più persone e anche lì ci sarà un adeguamento. Per fortuna il costo della mensa era già coperto, mi pare, all'80%, comunque un 20% in più. E così anche per quanto riguarda la TIA, cioè la tariffa dei rifiuti, siamo sul 90% di copertura attuale, quindi bisognerà comunque aumentare di un 10%. L'IMU andrà al massimo e quindi adesso bisogna vedere poi il governo che cosa deciderà, ma al momento potrebbe arrivare al 6 per mille per le prime case ovviamente, poi invece per le seconde anche al 10. E poi i trasporti, che lì se si dovesse applicare rigidamente la legge, cioè coprire con le tariffe il costo, penso che il biglietto dovrebbe essere portato a 3, 4, 5 euro, ma non credo che una cosa del genere consentirebbe agli autobus di stare sul mercato. A 5 euro non credo che ci sia molta gente che prende un autobus, e quindi anche lì bisognerà trovare una soluzione. Ma secondo te, per fare un paragone, perché io ho usato questo caso di Alessandria solo perché sono piemontese, quindi è ovvio, seguo un po' le cronache anche locali, ma perché la mia opinione è che questo caso dovrebbe fare molto riflettere tutti coloro che pensano che tanto i tetti pubblici non crollano. Non è vero, alla fine gli squilibri a lungo andare di bilancio e le disinvolture di chi, vedendo tutti i segni di una crisi che arriva, non prende misure adeguate, possono esitare benissimo i fallimenti pubblici. Questo può riguardare i paesi come può riguardare le amministrazioni comunali, provinciali e regionali. E per questo ti chiedo, gli alessandrini, secondo te, negli anni si erano resi abbastanza consapevoli o solo alla botta finale hanno aperto gli occhi e credevano chi dava l'allarme, per esempio voi, semplicemente degli incendiari di professione, come spesso capita quando si fa questo mestiere, si dice guardate che andate a sbattere, guardate che andate a sbattere. Qualcuno ti dice no, chi ti manda a te, sei un nemico politico, oppure qualcun altro pensa che tu sia un pazzo esagitato. Ma gli alessandrini, che sono noti per essere gente coi piedi molto per terra, difficile vederli presi da voli pindarici per così dire, se ne erano resi consapevoli secondo te? Oppure molti di loro stamattina dicono oh. Ma credo che molti di loro stamattina abbiano detto A, e forse molti di loro stamattina non hanno neanche detto A perché non hanno ancora capito, capiranno quando arriveranno le prime cartelle esattoriali aumentate. Il problema è che si tratta di affrontare un tema che secondo me per molti è ostico, quindi i numeri. Un conto è fare i conti a casa propria, però poi quando ti dicono che tutto sommato un comune non si gestisce come una famiglia, ma ci sono certo degli altri strumenti, invece poi se uno legge per esempio le pronunce della Corte dei Conti, e ci vuole una certa forza d'animo, sì, devo dire, perché sono scritte giustamente anche in maniera molto... molto beh, non troppo precisa. Giustamente, si potrebbero fare in termini più friendly, amichevole. Però quando si rileggono e si interpretano si capisce che poi il problema fondamentale è sempre quello, e cioè non si può spendere più di quello che si incassa. Ecco, su questa conclusione aurea di Piero Bottino, ottimo collega capo redazione di Alessandria della Stampa, che insieme ai suoi colleghi ha fatto bene il suo mestiere di cane da guardia degli interessi pubblici, avvisando da anni a questa parte che si andava a sbattere, e puntualmente si è andato a sbattere, auguri agli amici di Alessandria che pagheranno, perché dovevano rendersi conto prima che la politica che non sa stare in equilibrio a dare i migliori servizi per il più basso costo, così contenendo la spesa e le tasse e lasciando margine per la crescita, è l'unica politica che vada perseguita. Nel lungo andare, chiunque dica che il pubblico non fallisce mente, e vi avrà rapinato prima con più tasse e dopo vi aspetterà una botta ancora peggiore che vi consentirà di riflettere e imparare. In grande è lo stesso problema irrisolto del nostro paese. Allora sì, io torno con i Doors perché è più probabile che me ne vada insieme a loro tra pochissimo, e vi saluto, mi dedichi a un'altra alternativa. Del resto, se vuoi cambiare il paese dal basso ti devi dedicare poi a cambiare il paese dal basso. basso, e del resto se hai idee minoritarie ti scontrerai col fatto che non sei utile e cambiando mestiere penserai di più al tuo bilancio personale. E in definitiva poi, se non riesco a occuparmi meglio di quello pubblico, se molti come la maggioranza di voi oggi mi dicono che la cosa migliore è lasciare e allinearmi a Barisoni che ha vinto e perché hanno vinto gli italiani che non ne possono più, come dice il titolo del giornale di oggi. Ma l'avete visto il titolo del giornale di oggi? Io mi vergogno di essere... Mi dispiace perché poi mi stanno simpatici. Ma come si fa a aprire un giornale ciao ciao culona? Cioè, è questo il meglio del sentimento italiano che voi volete assecondato per sentirvi forti? Ma se la nostra economia perde più vicino al 3 che al 2%, leggetevi oggi il Sole 24 Ore che dice che l'Italia è una guerra, gli investimenti che calano dell'8%, ma di che cosa cazzo siete fieri voi che mi dite che me ne devo andare? Di cosa siete fieri? Di farvi spogliare dallo Stato e voi ballate come imbecilli perché fate due gol alla Germania? Io uso questo tono, sarò minoritario, preferirei che l'Italia fosse in piedi per i suoi risultati veri, non perché fa gol a calcio. Il calcio è una grande cosa, per carità. Stanotte abbiamo strappato una misura solo per noi, ma perché siamo deboli. Comunque, sentiamo come la pensano alcuni di voi. Spero che almeno mi risparmiate gli insulti. Se me ne devo andare, me ne vado, ma non insultiamoci, ragazzi. Massimo da Firenze, prego, Massimo. Buongiorno, no, io anzi sono completamente d'accordo. Avrei voluto vedere la stessa fermezza di Monti quando doveva liberalizzare l'Italia e al primo abbaglio di quattro corporazioni ha calato le brache, scusi il termine, ma è... Ecco. E non solo, ma io quando sento parlare di crescita, io vorrei sapere crescita di che cosa, in che senso? Sono io che devo crescere, non lo Stato. Lo Stato deve levarmi gli ostacoli per crescere, non crescere lui. Massimo, benvenuto nel club dei minoritari, se la pensi così, perché pare che invece sarà lo Stato con le dighe un po' strappate stanotte a garantire agli italiani tutto quel luminoso sentiero che ci ha già garantito con questi tassi di pressione fiscale in questi anni, cioè ci ha buttato da una crescita zero a una crescita che perde 6 punti di PIL 2008-2009 e adesso ne perde più 3 che 2, con la differenza che quest'anno perdiamo in termini di consumo pro capite il doppio di quanto perdemmo nel 2008-2009, all'epoca 1,7, quest'anno perderemo il 3-4, e questo, di questo sono molto contenti coloro che inneggiano alla via del modello italiano, cioè il massimo delle retribuzioni di casta, il massimo delle retribuzioni di vertici della pubblica amministrazione, una quantità di dipendenti pubblici superiore a quella sul totale della popolazione della Germania, ma che quando anche diminuiscono di 100.000 unità, come è avvenuto negli ultimi 10 anni, aumentano però il termine di costo di 33 miliardi sulle nostre spalle. E ricordiamoci di tutto questo prima di esultare. Gennaro dalla Spezia, come la pensa? Buongiorno, io sono fiero di appartenere al club dei minoritari e noi direi dirle che comunque sottoscrivo tutte le sue denunce senza perdere tempo, ma il mio intervento era voluto al fatto che evidentemente la gente ha fatto un po' di confusione tra quella che era la partita di calcio e qual era la vera partita che si giocava ieri sera, ha perso qualche riferimento probabilmente. E l'ultima cosa, se me lo consente, e parlare di questa classe politica che sinceramente questo popolo non se la merita, non ha fatto niente per meritarsela, dovrebbe essere l'anima nobile di questo popolo, ma in realtà è proprio il contrario. Non so se lei sia d'accordo. Questo però mi interessa capirlo meglio, cioè lei dice gli italiani sono meglio, ho capito? Cioè, sicuramente, no, ma senza proprio di dubbio. Sai cosa diceva un mio zio anziano che non c'è più? Mi diceva: guarda, io quando vado a votare, che ti devo dire? Hai presente un secchio di cacca? Ecco, io voto quello di sopra, non proprio quello di sotto. Ma sempre in questo. Ma la materia è quella, insomma. Esatto. Mi pare che lei ci chiami dalla Spezia, ma dall'accento oserei dire non è proprio del nato vicino alle bocche di Maghera. Ecco. Ma è uno che si chiama Gennaro, non può essere spezzino. Esattamente. Auguri e grazie a Gennaro. Gabriele invece, Gabriele ci chiama da Macerata, mi dicono. Come la pensa Gabriele? Buongiorno, io volevo porre invece una domanda molto precisa. A me mi sembra che l'enorme debito che lo Stato ha accumulato con il sistema imprenditoriale delle aziende italiane sia un debito non iscritto nel bilancio. In pratica non si vuol rimborsare, non si vuol pagarlo, non si vuol compensarlo, non si vuol dare documenti che ne comprovino l'esistenza. È così. Da quello che ho letto io risulta questo. Lei può approfondire questo argomento, perché in questo caso sarebbe proprio una vera violazione del sistema del bilancio, il bilancio sarebbe veramente falso e l'Europa forse non si è accorta di questa ulteriore violazione. Gabriele, guarda, l'Europa lo sa, perché sa perfettamente che quei debiti commerciali esistono, ma lo Stato asimmetricamente, trattandoci da sudditi, parentesi per i minoritari che non l'avessero ancora fatto, trovava su Amazon.it i books Italia e i book izzati ebook Republic, compratevi pochi euro, sia sudditi che se va bene andrà peggio, scenari sull'eurocrisi, chiusa parentesi, ma ripeto, lo Stato ci considera così asimmetricamente sudditi invece che cittadini, che il suo debito commerciale, i suoi 70 miliardi di debito commerciale, come i suoi 30 miliardi oltre di debito fiscale rispetto ai crediti maturati dalle imprese nei suoi confronti, lui non li registra, non ne ha una contabilità, dice io non devo avere la contabilità, se voi ritenete di avere un credito nei miei confronti dovete giustificarmelo voi, producete voi le carte, venite qua, spogliatevi del vostro diritto di portarmi in tribunale per avere i titoli esecutivi. Ma del resto è così che si comporta un ordinamento assolutistico come lo Stato soi-disant liberal democratico italiano. È uno Stato che si dà ragione nella giurisprudenza oltre che nelle leggi, è uno Stato che ti persegue penalmente per reati che non esistono come fattispecie nel codice penale, come avviene per l'abuso di diritto esteso prima dall'elusione fiscale e poi all'evasione fiscale, ed è uno Stato di questo tipo quello che, come giustamente dice il nostro ascoltatore di Macerata, nega di avere un problema di debito e dice di farlo per ragioni virtuose, per non far emergere altro debito pubblico buttando le imprese per strada. Ed è per questo che le costruzioni, che ovviamente lavorano molto per le opere più grandi, per le mini opere pubbliche, sono al quinto anno col segno meno, con 50.000 imprese in meno, l'esatto opposto, visto che dovrebbe essere un settore anticiclico invece che è diventato ipercyclico nel nostro paese. Questo è lo Stato a cui tutti inneggiano e che vi convince di essere tagliabile solo nella misura di quei 5 miliardi per evitare l'IVA, e hanno scomodato Enrico Bondi per questi 5 miliardi, cioè lo 0,57% del totale della spesa corrente. Dice Giannino urla è pazzo, levatecelo dai piedi, va bene, come volete, pagate somari, siate contenti e vi auguro molte partite in cui gioire per dimenticare ciò che lo Stato vi leva dalle tasche. Intanto gioite, gioite, a lunedì.